24 di Giovanni Minoli. Oggi la Consulta decide sulla costituzionalità dell'Italicum. La Consulta esaminerà la legge elettorale varata sotto Renzi e il ballottaggio non è più un tabù, soprattutto dopo la vittoria del no al referendum. Sentenza molto attesa innanzitutto da Movimento 5 Stelle, Lega e PD renziano, che sin dall'indomani dell'esito del referendum non hanno smesso in un modo o nell'altro di invocare un veloce ritorno alle urne. Signor giudice, le stelle sono chiare per chi le può. Chiedo a nome di milioni di italiani che la Consulta emetta velocemente una sentenza, metta a disposizione degli italiani una legge elettorale, qualunque sia. Io lo ripeto ai giudici, per la Lega fate veloce. Quel giorno quando verrà, giudichi senza pietà, ci vergogniamo tanto d'essere uomini. Buongiorno, bentornati a Mix24. Oggi abbiamo sentito il giorno della decisione della Consulta sull'Italicum. Ecco, professor Sabino Cassese, buongiorno. Buongiorno. Giudice emerito della Corte Costituzionale. Che cosa significa sentenza auto-applicativa? Significa una sentenza che non lascia vuoti e che il giorno dopo consente di fare delle elezioni. L'Italia senza legge elettorale non può restare, perché sennò la democrazia è interrotta. Certo. E quindi dopo questa sentenza si può votare per forza? No, dopo una sentenza di questo tipo non c'è bisogno autoapplicativo, vuol dire che non c'è bisogno di un ulteriore intervento da parte del Parlamento. Questo non vuol dire che l'edificio sia perfetto dopo questa sentenza, ma vuol dire che è possibile andare a votare. Senta, ma perché il secondo turno dovrebbe essere incostituzionale e abolito? Le osservazioni che sono state fatte al secondo turno sono due o tre. La prima è che può vincere anche una lista senza una ragionevole soglia minima. Facciamo un esempio. Corrono al secondo turno due liste naturalmente, sì. Una prende il 30%, un'altra il 20%, se vince quella con il 30% è sempre una minoranza. Certo. L'altra osservazione è se si vincono, cioè se due liste hanno tutte e due il 40%, chi vince? E quindi ci sono delle contraddizioni. L'ultima è quella che vi potrebbe essere una lista che al primo turno ha avuto una larga maggioranza senza arrivare al 40%, va al ballottaggio e invece perde, mentre un'altra con minor numero di voti al primo turno vince. Questo è meno grave però. Sì, è meno grave, ma sono poi i paradossi, sì, che sono stati, non sono indicati da me, certo, sono stati lo so, certo, dai giudici, sì, alla Corte Costituzionale. Lei sa che la Corte Costituzionale, sì, deve decidere sulle questioni indicate dai giudici, certo, non è che naturalmente può di testa sua, certo, prendere delle decisioni. Senta, resta comunque il problema della legge elettorale del Senato. Certo, perché lì rimane la legge Calderoli, come modificata dalla sentenza numero 1 del 2014 della Corte Costituzionale, è definita con quello spirito goliardico con il quale vengono, sì, indicate le leggi, porcellum ovvero consultellum. Sì. Cioè tipo schifezza. Senta, ma quindi con leggi elettorali diverse tra Camera e Senato andare a votare è impossibile. Guardi, qui si affrontano... L'abbiamo due... già fatto, ma... Sì, ma si affrontano due punti di vista. Le leggi elettorali sono certamente diverse, ci sono altre diversità intrinseche. Certo. E si va a votare per il Senato a 25 anni e alla Camera a 18 anni. Il Senato deve essere eletto su base regionale, non invece la Camera che è eletto su base nazionale. Le soglie sono diverse, Camera 3%, Senato 8%. Ma professor Cassese, scusi, si può fare rapidamente una legge elettorale condivisa oppure siamo di nuovo nel regno dei sogni? Io ho l'impressione che siamo nel regno dei sogni, perché salvo che non si faccia una legge elettorale condivisa di tipo proporzionale, cioè facciamo un balzo indietro. Cioè un indietro tutta, insomma. Sì, un indietro tutta. E un indietro tutta che, come dire, ha due esiti. Il primo esito è quello dell'incertezza governativa. Quindi indebolisce qualunque governo si faccia. Naturalmente. Salvo che, e qui è un altro possibile esito, non ci si metta sulla strada di una democrazia che una volta si chiamava consociativa, però voglio ricordare che l'accordo tra cristiano democratici e socialdemocratici in Germania, il patto di accordo è lungo 183 pagine. Quindi definito nel dettaglio, quindi, ecco, quindi non è un inciucio, cioè proprio specifico su tutto, è un contratto molto dettagliato. Ma lei teme un compromesso al ribasso, visto com'è l'aria che tira? Io temo il compromesso al ribasso, e il ribasso potrebbe essere non ribasso se ci fosse una vera capacità dei partiti di mettersi d'accordo. Senta, ma torniamo alla Corte Costituzionale, quale errore potrebbe commettere in queste ore, professor Cassese? Quella di non fare una sentenza autoapplicativa, quella di fare una sentenza che lascia dei vuoti e quindi di distruggere una parte dell'edificio, costringendo il Parlamento a ricominciare, dover intervenire. E quindi, diciamo, la sentenza autoapplicativa è la cosa positiva da fare. Esatto. Ma quanto ha pesato, secondo lei, il risultato del referendum in questo scenario? Moltissimo, perché il referendum è stato un referendum sostanzialmente su Renzi, sulla riforma costituzionale e sulla legge elettorale. No, di fatto è stato questo. Esatto. Quindi pesa moltissimo anche sulla legge elettorale. Ma lei, professor Cassese, che previsione fa, a conoscendo le interna corporis e anche le persone, perché poi sono le leggi, le decisioni marciano sulle gambe delle persone? Non faccio previsioni sulle decisioni della Corte, ma faccio previsioni su quelli che potrebbero essere i risultati politici, diciamo. È verosimile che ci si troverà in una situazione nella quale i due sistemi elettorali saranno diversi. Questo richiederà una grande pazienza al corpo politico, perché le forze politiche debbono avere la capacità di mettersi d'accordo. Si può fare anche tra nemici un bel pezzo di strada insieme. È già capitato, sì, nella storia. Grazie professor Cassese, grazie. 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Dunque, fare previsioni è difficilissimo, Cassese, che persona saggia, ce l'ha spiegato con grande chiarezza. Ma secondo te si metteranno d'accordo i partiti dopo la sentenza oppure no? Cioè, a chi conviene accelerare o ritardare? Vabbè, Renzi vuole in qualche modo, insomma, accelerare, Salvini anche, però non si capisce poi bene perché... No, non si capisce. Tutto... Allora, è una gran commedia, sì, come abbiamo anche visto. La realtà è che nessuno è pronto a votare, tranne forse Grillo. Non è pronto il centrodestra, perché non c'è il candidato alla premiership e non ha neanche la leadership, perché la coalizione è spaccata, come sapete, tra Lega e Berlusconi in questo momento, dopo le elezioni di Tajani ancora di più, come avete visto. Non è pronto il centrosinistra, perché non c'è un Ulivo Prodiano, come ha detto anche l'altro ieri, cose che ha fatto con noi, eccetera. Non c'è pace dentro il PD, perché adesso c'è una spaccatura tra Gentiloni e Renzi, e c'è un solo partito in questo momento, un movimento. La spaccatura, che... insomma, quella un po' no. Però, a seconda delle ore, però il problema è che, appunto, è a seconda delle ore, quindi non c'è armonia. Cioè, resta Grillo in campo. Senti, questo è il vero punto. Pietrangelo, secondo te siamo in pieno Gattopardo? Tutto cambia perché nulla cambia, ritorniamo lì? E forse si resta sempre lì. Si resta un dato è certo, non ci può essere neppure un giorno senza legge elettorale, senza un patto costituzionale. Certo. E questo lo ha spiegato bene anche Cassese. Tra nemici è vero, si stabilisce un patto, però c'è un dettaglio su cui io immagino non si esprimerà certamente la Corte, né tantomeno si apre un dibattito. Il dettaglio è quello sovranazionale, ed è rivelatore di un deficit proprio di sovranità, e cioè che noi comunque, se non si può stare nemmeno un giorno senza un patto costituzionale, è anche vero che stiamo da moltissimi giorni, dall'arrivo di Mario Monti a oggi, senza che un governo corrisponda a un chiaro esito elettorale. Certo, hai ragione. Ecco. A Paolo chiederei, che ci manda un messaggio, dice: non avete idea di quante cose sbagliate state dicendo. Paolo, se ci scrivi cosa diciamo di sbagliato, noi proviamo a rispondere se siamo in grado. Giorgio Tonini, senatore del PD. Ecco, fatto questo passaggio, si fa la legge, si va a votare dopo la sentenza della Corte Costituzionale? È così o è banale? È difficile fare in questo momento una previsione. In ogni caso verranno al pettine i nodi, quindi ci saranno tutte le carte sul tavolo per poter decidere. Ma lei crede che ci sia una differenza di vedute tra Renzi e Gentiloni sulla data del voto? No, non credo che nessuno dei due abbia deciso, credo che sia in atto una riflessione, come è giusto che sia. Certo, Renzi dice di non volere un ritorno al proporzionale puro, ma sembra che la strada sia un po' quella. Il PD rimarrà in ogni caso centrale con una legge proporzionale, no? Con più fatica naturalmente, certo, perché il PD si definisce un partito a vocazione maggioritaria, certo, e un pesce, diciamo, per l'acqua salata nell'acqua dolce non sempre vive, sì, non se la cava sempre bene. Senta, farete in qualche modo come la DC usando la teoria dei due forni? Diciamo, intanto cercheremo di rendere il più possibile maggioritario il sistema elettorale, d'accordo, cioè di tenere, sì, di difendere gli spazi di maggioritario, però tenendo aperte anche la parte anche migliore della DC tentò di fare a suo, sì, tempo, e poi si vedrà quello, sì, che sarà possibile fare, ma intanto qualche cosa che gli elettori decideranno, intanto i rapporti di forza li stabiliscono loro, ma intanto qualche prova tecnica di governissimo con Berlusconi sono in corso. Diciamo, prove tecniche sono state fatte anche in questa legislatura. Certo, naturalmente. No, ma nuove prove tecniche, nuove. Se saremo costretti a questo, bisognerà fare buon viso a cattiva sorte, diciamo così. In qualche modo la RAI, che anticipa sempre il paese, con Sanremo, condotto da Mediaset e RAI insieme, potrebbe essere una prova tecnica. Mettiamola così. Senta, in assenza di una vittoria schiacciante di un partito, in ogni caso un governo di coalizione è indispensabile. Questo è il problema. Il problema è che le coalizioni oggi sono ancora più difficili di un tempo, perché i partiti sono assai meno solidi. Certo. Le coalizioni richiedono partiti solidi, grandi o anche meno grandi, ma solidi. Solidi, certo. Invece noi abbiamo partiti molto liquidi. Molto liquidi. Senta, sì. Prodi ha detto l'altro giorno che si potrebbe riprovare con un Ulivo bis. Lei è d'accordo? Ma l'Ulivo resta nell'immaginario collettivo del centrosinistra come una grande operazione, però onestamente non capisco bene cosa vuol dire oggi. Certo. Perché il PD è l'evoluzione dell'Ulivo in un partito, cioè, certo, è l'Ulivo, cioè il passo successivo, partito. Ecco. Senta, ma si può ricucire con la sinistra bersaniana, con una legge che in qualche modo lo imponga, oppure lo strappo ancora molto largo? Ci sono degli elementi che via via si sono approfonditi di differenza strategica, sì, quindi è difficile. Io spero che sia possibile, ma non sono sicuro. No. Senta, lei è stato vicino a Veltroni, che aspirava alla costruzione di un PD a vocazione maggioritaria. L'anima del PD resta quella, comunque? Quello è la ragione sociale per cui è nato il PD, è nato il PD, storica, per cui è nato il PD. Senza quello l'impressione che torniamo alla frammentazione partitica anche nel centro-sinistra. Questo è un evento da scongiurare. Da scongiurare, assolutamente. Senta, Toni, lei è anche presidente della Commissione Bilancio del Senato, quindi quanto incide la situazione dei conti pubblici sulla decisione di votare? Incide o no, intanto? Beh, certo, è uno dei temi sul tavolo, perché votare subito significa non fare in questa legislatura l'ultima manovra necessaria, quella dell'anno prossimo. Certo, perché però ci sono i pro e i contro, innanzitutto per il paese e poi anche per le forze politiche. In ogni caso è indubbio che siamo di fronte a degli eventi eccezionali, che come immigrazione, terremoto, maltempo, che incideranno pesantemente sui conti. Avete fatto una stima di quanto vale questa roba? Diciamo, le stime che si fanno in questi giorni, che sono ancora prime caldi, approssimazioni, sì, certo, parlano di alcuni miliardi in più. Da trovare. Da trovare per il terremoto e, certo, e maltempo, diciamo, il combinato disposto. Cioè, perché le cifre che fanno la Protezione Civile sono cifre molto importanti. Sì, esattamente. Purtroppo è così. Aver smantellato la Protezione Civile per adesso dire che bisogna ridargli poteri assoluti, insomma, non è stata una grande idea. Beh, per la verità non è stata smantellata. Beh, insomma, abbiamo abbastanza. Una delle protezione civile migliore del mondo. No, no, ma i poteri, no, ma i poteri, lei sa bene su, che... Sui poteri, sì, naturalmente noi siamo in questo paese molto emotivo, esatto, infatti. C'è la fase nella quale si vuole dare tutto il potere, poi bisogna toglierglielo tutto. Si è abusato veramente o presuntivamente. Senta, Prodi nutre il sospetto che la Germania voglia uscire dall'euro. In questo scenario non è un'avventura andare a votare? Beh, comunque dovremo andare a votare. Ah, beh, certo, prima, nel 2018, dopo, certo, no? Sì. Ma onestamente lei pensa non che è non incide. Appassionante, non cambia molto. Diciamo, l'unica vera differenza è con che legge la manovra in questa legislatura o nella prossima. No, quello non cambia, se è quello cambia una molto. Certezza di avere un governo, diciamo, più forte, con un'investitura diretta dei cittadini, varrebbe la pena andare, certo, a votare subito, ma questa, certo, certezza non c'è. Ecco, Mario, tu ci credi alla Germania fuori dall'euro? Ricordo che negli anni 90 Schäuble e Karl Lammers elaborarono il progetto della Kerneuropa, cioè del nocciolo duro europeo, e a lì stanno, secondo me, sono fermi lì. Stanno tornando là. Stanno tornando là. Ecco, sì. Pietrangelo, tu l'altro giorno in televisione hai fatto un esempio divertente che io ho ripreso, ma che però ha un suo senso, cioè Conti Maria De Filippi a Sanremo come simbolo anticipatore di quello che sarà il nuovo Nazareno 2. Sì, perché il Nazareno è il sottinteso, il sottotraccia, il sottotesto di tutte queste operazioni politiche. Certo. Ed è la vera attesa della prossima stagione. La verità è che non si è potuto realizzare per un solo motivo, e cioè che Matteo Renzi, che doveva farsene carico, non è abbastanza nazional popolare, meglio ancora, non è italiano, non è identificato in una forte caratterizzazione popolare e totalmente italiana come poteva essere Silvio Berlusconi nei suoi giorni migliori. Ecco, appena ne trovano uno lo fanno. È fatto. Onorevole Giancarlo Giorgetti, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie della sua disponibilità. Il consigliere più ascoltato prima da Bossi, poi da Salvini oggi. Ecco, Giorgetti, lei è d'accordo con Tonini? Anche secondo lei il governo di coalizione è indispensabile? No, assolutamente no. Serve un governo eletto finalmente dal popolo, perché questo ci siamo. Forse dimentichiamo che questo Parlamento, diciamo, legittimato dalla Corte Costituzionale, ma di fatto è incostituzionale se stesso, e quindi forse sarebbe il caso di correre ai ripari il più presto. Ecco, oggi siamo arrivati a una nuova decisione della Consulta. Lei ha fiducia nei giudici della Corte Costituzionale o no? Io ho fiducia. Si aspetta una soluzione? No, io ho ascoltato Cassese prima, sì, io penso che non possono non fare una sentenza autoapplicativa, se no farebbero una sentenza incostituzionale. Sì. Da quel momento abbiamo una legge costituzionale e da quel momento, secondo noi, si deve andare a votare. Quindi lei, diciamo, si aspetta una decisione, una legge autoapplicativa, insomma. No, ovviamente Salvini è stato molto chiaro nei giorni scorsi, se non avvenisse questo sarebbe veramente un ennesimo, diciamo così, colpo di Stato dopo altri che in modo più o meno subdolo sono stati perpetrati in questi anni. Noi abbiamo il timore che se il Parlamento viene investito della responsabilità di farci una legge elettorale, impiegherà non se ne esce più tutti i tempi necessari affinché si vada al 2018. Quindi si andrà a votare con la legge che c'è, insomma, in quella prospettiva. Senta, lei considera, come diceva Bossi spessissimo, che la Corte è un organismo troppo politicizzato? Beh, diciamo che storicamente segue gli influssi del sentimento politico. Sì. Ad esempio sul federalismo, nei primi anni in cui era di moda il federalismo, le sentenze andavano quasi tutte a favore delle regioni. Poi quando si è tornati a un sentimento prevalente centralista, le sentenze sono state a favore, diciamo, dello Stato. Senta, lei è stato nominato, onorevole Giorgetti, da Giorgio Napolitano nella Commissione dei Saggi, sì, per la riforma costituzionale. Che cos'è che è andato storto? Cioè, per colpa di chi? Cosa è capitato? Ma secondo me è andato storto, almeno nel progetto di Napolitano, semplicemente perché quel progetto che politicamente poteva, che secondo me era discutibile, di un governo di responsabilità nazionale, è stato fatto saltare dal protagonismo di Matteo Renzi, il quale la responsabilità nazionale la confondeva con la responsabilità personale o la irresponsabilità personale. e quindi a quel punto, approfittando appunto di un Parlamento eletto con un premio dichiarato incostituzionale, sì, pensava certo. di modificare Costituzione, legge elettorale e tutto quanto, tutto senza insieme. Far conto a nessuno, senta. Con qualche prebenda, non so, ad senta. Alfano ed altri. Senta, ma comunque la Consulta deciderà oggi, certo. ma cade quindi l'ultimo ostacolo per votare, cade. In Parlamento la vostra strategia quale sarà? Avete un piano A, un piano B? Ma noi i numeri che abbiamo in Parlamento non sono probabilmente quelli che abbiamo oggi nel corpo elettorale, quindi noi lo stimolo... Volete votare, basta. Ma certo, noi... Certo. Scusi, Sì, allora, leggo d'accordo. Che tutti quanti dicono che il 4 dicembre è finita la legislatura, ma perché noi abbiamo chiesto il 10 dicembre... che le Camere lavorassero dicembre e gennaio per fare una nuova legge elettorale, non hanno fatto assolutamente tutti in nulla, vacanza, tutti in vacanza, è sintomatico certo. dell'andazzo. Senta, ecco. Onorevole Giorgetti, però ci sono dei normi anche grandi, dei problemi grandi da sciogliere, nodi da sciogliere, oltre la legge elettorale. Prima di tutto, chi sarà il candidato del centrodestra per quello che riguarda voi a Palazzo Chigi? È troppo presto? Noi siccome siamo coerenti con la, diciamo, il nostro desiderio espresso di andare a votare, abbiamo proposto il sistema delle primarie, certamente noi avremo il nostro candidato, però con chi accetterà di confrontarsi accetteremo anche serenamente il responso di quelli che sono gli elettori del centrodestra che andranno a votare. Ma quindi voi immaginate delle primarie, onorevole Giorgetti, aperte agli iscritti o a tutti gli elettori potenziali del centrodestra? A tutti coloro che aderiranno al programma del centrodestra, che prevederà evidentemente dei punti fermi sull'euro, sull'immigrazione, e quindi non semplicemente gli iscritti, ma tutti coloro che in qualche modo aderiranno a questo tipo di principi. Senta, onorevole Giorgetti, lei è stato molto importante con Bossi, lo è con Salvini. Qual è la differenza principale della Lega di Bossi rispetto a quella di Salvini, oppure di quella di Salvini rispetto a quella di Bossi? Diciamo che Bossi aveva un orizzonte orientato a lunghissimo termine e in qualche modo non si curava del consenso immediato. Faccio un esempio: la vicenda Milosevic-Serbia a posteriori probabilmente nei libri di storia sarà scritta in un certo modo. Bossi certo. accettò consapevolmente di suicidarsi in termini elettorali per una questione che riteneva giusta. Salvini è un uomo politico degli anni del 2000. Cioè tutto subito, la velocità. No, tutto subito. È un personaggio politico che sa usare i media per quello che, certo. che valgono dalla politica e quindi è capace di vivere nella realtà politica del 2019. Lei ha detto per quello che valgono nella politica, secondo lei quanto valgono? Perché diciamo, se uno analizza la presenza di Renzi nei media per il referendum, bisognerebbe dire che non valgono niente. Diciamo che Renzi come Trump, nel senso che Trump vince contro tutto il sistema mediatico dell'establishment, come pure per Renzi. Anche la Brexit. Esatto, perché c'è un meccanismo sotterraneo che non passa attraverso i giornali, sicuramente ormai, diciamoci la verità, contano più niente. La televisione conta abbastanza, ma non molto. C'è tutto un sotterraneo mondo del web, di internet, che è quello che fa e alimenta come un fiume carsico il consenso. Certo. Si è verificato nella Brexit, si è verificato su Trump, si è verificato su Renzi. Chiunque avesse WhatsApp sapeva l'esito elettorale del referendum in Italia. Comunque diciamo che la televisione, i giornali non contano, la televisione conta per la vanità individuale, possiamo dirlo certo. così. Ecco, gli elettori di Lega e 5 Stelle però sembrano sempre più, cioè, si scambiano il voto, candidati ad amministrative, ci potrebbe essere un'intesa? Questa è una creatura, un'invenzione, diciamo, del laboratorio, diciamo, dei giornalisti, che ovviamente devono rappresentare anche gli scenari più imprevedibili certo. rispetto alla legge. Quindi non è vero, diciamo. Non ci scambiamo niente, cioè, onestamente. Quindi nessuna alleanza possibile. Ma io non dico mai, perché ne ho visti di tutti i colori, quindi siccome ho visto Fini e Bossi che si mandavano a quel paese e poi hanno fatto la legge sull'immigrazione assieme, quindi vuol dire... A quel paese è poco, perché durante la campagna elettorale del governo Berlusconi, quello che è stato poi il governo Berlusconi, quello che si dicevano Fini e Bossi è praticamente irripetibile oggi. E quindi vedremo quando uscirà il sistema proporzionale, ne vedremo delle belle tra coloro che oggi vanno d'amore d'accordo. Senta, diciamo, ma Berlusconi è ancora un possibile candidato, come sostiene lui, per Palazzo Chigi, oppure solo passando attraverso le primarie, oppure no? Lui sicuramente veramente è un personaggio politico importantissimo. E noi abbiamo detto passiamo attraverso le primarie perché è giusto in qualche modo adesso misurarsi rispetto all'ansia di novità e di rinnovamento che noi intercettiamo dalla gente che frequentiamo. Quindi Berlusconi certamente può mettere in campo la sua leadership, deve essere ratificata magari in modo plebiscitario dal corpo elettorale. Senta Giorgetti, Salvini ha spostato l'attenzione dall'euro all'immigrazione, che strategia c'è dietro? No, non abbiamo spostato, diciamo che... L'accento si è un po' no, sì. Vedrà che nelle prossime settimane torneremo diciamo così anche sul tema dell'euro, però è sicuro che il messaggio che deve arrivare diciamo al popolo è quello che la Lega sull'euro e sull'immigrazione ha le idee molto chiare. Sì. Soltanto messaggi chiari riescono a fare chiarezza nella confusione che oggi regna nella politica italiana. Maria, una domanda per Giorgetti? Sì, buongiorno Giorgetti. Buongiorno. Quanto conta il momento Trump per la Lega oggi? Per la Lega conta tanto, per l'Italia e l'Europa conta tantissimo, nel senso che nessuno può ignorare il fatto che il vento che arriva in un senso o nell'altro dagli Stati Uniti è sempre stato determinante e lo sarà, ad esempio per quanto riguarda l'Europa, nessuno credo che sia sfuggito il fatto che la signora Theresa May il giorno dopo che Trump ha dato l'ombrello, che il cugino americano ha dato l'ombrello, non ha avuto nessun timore di dire quello che prima timorato voleva da Dio. Dire, infatti. Senti, tu Pietrangelo? Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Allora, la Lega predica male ma razzola bene stante i risultati per esempio su Lombardia e Veneto, quindi Maroni e Zaia sono stati indicati come tra i virtuosi. Allora, la mia domanda è questa, Giorgetti, dato che lei è un acuto consigliere, ma perché non consiglia alla Lega di candidare alle primarie del centrodestra, per esempio Luca Zaia o Maroni, dato che sfondano verso l'elettorato di centrodestra, molto più di quanto possa fare Salvini, che invece fa il suo buon lavoro in TV, nei media e su Twitter? Di prima battuta potrei dire che serve la disponibilità individuale a sacrificarsi in una cosa di questo tipo, però uno dice questo lo tirate in corner e quindi non vuole rispondere. Vediamo come sarà la sentenza della consulta. Non scappi, va Salvini e vediamo il risultato. Risposta: no, non da lei. Lei parla chiaro in genere. Ho detto che i due personaggi non si sono detti disponibili. Va bene, grazie Giorgetti. Grazie, grazie a voi. 800 24 00 24. Il numero di telefono SMS 349-238-6666. Pubblicità. Mix 24. Sì. Allora Pietrangelo, che sentiamo oggi? Arriva Amore antico, amica mia. Amore radio, nostalgia. Io non ti penso quasi mai, ti ho dato in pasto agli avvoltoi, all'olocausto e ai marinai. Allora Pietrangelo? Allora stamattina c'erano bionde siderali in agguato tra coreografie cosmiche, poi c'erano nuvole in forme di astronavi, pianeti disegnati da surrealisti, eserciti d'archetti in cerca di violini. Ha telefonato Salvador Dalì, ha voluto questo brano con un messaggio: ragazzi, Gala dorme e quindi mando tutti i baci ad Amanda Lear. Come mai? La fotografia in cui ci stringeva. Allora Mario, Dove andiamo? Montecitorio? Sì, andiamo a Montecitorio. Prima però do solo un piccolo aggiornamento. Allora, il CEO di Hogan, cioè l'amministratore di Hogan, scusate, di Etihad, che è l'azionista di Alitalia, sapete, che è James Hogan, lascerà a metà del 2017, è stato comunicato adesso. È una notizia di non poco conto, perché certifica quello che sapevamo, cioè l'errore clamoroso nella strategia di sviluppo. E quindi cambia i vertici di Alitalia. Si cambia i vertici di Alitalia, bisogna vedere se sopravvive, perché qua si arriva viva all'appuntamento col cambio. Andiamo con e invece adesso andiamo di nuovo Laura Pergolizzi, che è un talento bestiale. Allora, vabbè, di lei ho già detto l'altro giorno, ripeto, Laura Pergolizzi è il P, è americana ma di origine italiana, come potete facilmente intuire, super voce, seguitela, grande cosa. Vabbè, a Montecitorio la seguono. Dopodiché andiamo a Montecitorio, che non la seguono ovviamente, per dirvi solo che con un tempismo micidiale, in perfetto orario con il treno della storia, continuando a seguire i lavori parlamentari di Montecitorio, che come sapete io mi appassiono moltissimo, certo. Dopo i trenini turistici di cui ieri, vi ho raccontato ieri, nel fascicolo di seduta che io così ho spiluccato eccetera eccetera, c'è una fondamentale, direi perfetta, puntuale variazione di una legge del 2012, allacciate le cinture, siete in macchina, sul Festival Verdi di Parma e Busseto e naturalmente del Roma Europa Festival. Battono cassa. Vabbè, no? La cultura batte cassa. Certo, la cultura, e bisogna pur cambiarla la legge. La cosa stupefacente è che c'è una legge, perché in Italia non si scappa. Tu lo sai, Giovanni, per ogni cosa, sulle tue cuffie c'è sicuramente una legge, anche sulle tue lenti. E allora, dulcis in fundo, sempre con la logica di essere sincronizzati con la storia, d'altronde là fuori non è che non sta succedendo niente, mi pare. La Camera dei Deputati, questa assemblea che desta la meraviglia del mondo, devo dire, fa propria la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Vabbè, 38 anni dopo. Infatti sono trascorsi solo 38 anni. L'importante, come dico sempre io, è arrivare puntuali con gli appuntamenti della storia. E se là fuori poi sta succedendo qualcosa, come abbiamo raccontato poco fa, fa niente. Ci arriveremo 38 anni dopo, quando non ci saremo più. Che poi non è detto che questa relazione risolva tutti i problemi, anzi, ovviamente. Anzi. Salamino! Vincere è un gioco, dimenticare Giovanni però è salvezza. Oh, potente invettiva di Luciana Littizzetto, a che tempo che fa su Rai 3 contro i VIP testimonial del poker online. E per esempio ha parlato dei calciatori che si prestano a fare la pubblicità al gioco d'azzardo. Vincere è un gioco, dimenticare è salvezza. Solo che La Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, non se lo scorda. E mentre la Littizzetto pone una domanda: ma lo sapete che il gioco d'azzardo in Italia ha un giro d'affari di 88 miliardi? Mentre la Littizzetto sottolinea un dato, si stima che in Italia almeno 1 milione di persone soffra di ludopatia, Fabio Fazio, eroe di tutte le virtù civiche, democratiche, legalitarie, umanitarie, sociali, missionarie, resistenziali, pacifiche, salutiste, equosolidali e ideologicamente progressiste, e biologiche. Tenta una fuga biologica, Mario, biologica. Ma una fuga! Benedice e dice... È una cosa inaudita che ci siano macchinette nei bar dove vanno i ragazzi. Ecco! Una fuga! Giovanni, dimenticare salvezza, ma La Verità, il giornale di Belpietro, non dimentica. Giorgio Arnaboldi, nel suo articolo di oggi, ricorda tutto. Vincere è un gioco, è lo slogan urlato dal Pio Fazio. Qua. Dal civico Fazio, dal democratico Fazio, dal legalitario Fazio, dall'umanitario Fazio, dal sociale Fazio, dal missionario biologico. Fazio, dal resistenziale Fazio, biologico Fazio, equosolidale Fazio, ideologicamente progressista Fazio, vincere un gioco, lo slogan che lui ha urlato dal 1998 al 2003, testimonial del gioco del lotto, emblema e stigma dello Stato biscazziere, e dico biscazziere, ma su Fazio si sa. Con quella bocca può dire tutto ciò che vuole. Con quella bocca può dire ciò che vuole. Va bene, Mallotto è il gioco di Stato, Totone parla sempre. Però è vero, Totò. Io me l'ho dimenticata sta roba. Vabbè, vai con un'altra e la verità ricorda. Biologico. Biologico. Vabbè. Questa non l'ho presa io oggi, vabbè, l'ha presa la regia Ale con Gloria, però va bene, sono i Pink Floyd, Ship. Oh, Giovanni, e non è che io posso esimermi da raccontarvi cosa sta facendo Trump? No, dobbiamo quotidianamente dobbiamo seguirlo. No, perché sai, bisognerà pur e poter le bourgeois, come no, si dice. Capita, no, capita, cioè, voglio di tutto. Dire. Allora, niente, procede come un treno. Il Senato sta ratificando le nomine, sta dando il via libera alle nomine fatte dal Presidente degli Stati Uniti. E è arrivato il sì a Mike Pompeo alla CIA, era molto importante e ha avuto un voto molto largo. Questo positivo vuol dire che si sono, diciamo, un po' stemperate le polemiche, tensioni, le tensioni su, soprattutto sull'agenzia di spionaggio, la più importante ovviamente dell'intelligence community. E sì al generale Mattis alla difesa, è un altro punto importantissimo. Via libera che arriverà per Rex Tillerson al Dipartimento di Stato, via libera da McCain, da Marco Rubio e da altri che, cioè, dagli avversari, dagli avversari interni, dall'Instagram e così via. Quindi insomma le cose stanno procedendo speditamente. Oggi il Senato dovrebbe confermare altri tre nomine. La più importante è quella di Wilbur Ross al commercio, che è l'anticina sostanzialmente, quello che dovrà avrà il compito di correggere, diciamo, di riportare a un livello accettabile per gli americani il deficit commerciale con la Cina. Ieri Trump, come sapete tutti, ha messo la pietra tombale sul trattato di libero scambio. Non era passato. No, era già morto, però gli ha fatto il funerale con un executive order, che insomma fargli un degno funerale è sempre una cosa importante. Canzoniere. E tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh, d'un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ah, c'è Claudio da Viterbo già. Claudio? Sì, pronto. Veloce. Buongiorno. Come un razzo. Pronto? Allora? Sì, è il 10 agosto di Pascoli. Giusto. Giustissimo. Che fa di bello a Viterbo? Sono ufficiale dell'esercito. Ah, e non è in caserma adesso? Mi avete richiamato, però. Ah, ho capito, vabbè. Mi avete richiamato, non è male. Grazie, grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Perché pubblicità. Aveva chiamato prima. Mix 24. Il 24 ottobre alcuni compagni vennero ad avvisarci che qua fuori, dove c'era allora la macchinetta distributrice del caffè, avevano trovato dei volantini delle Brigate Rosse ripiegati, nascosti dietro la macchina del caffè. Uscimmo subito all'improvviso per vedere se era possibile individuare chi era stato, e vedemmo allontanarsi in bicicletta il Berardi. Era il 24 ottobre del 1978 e in prima fila a denunciare il suo compagno di lavoro, Francesco Berardi, c'è Guido Rossa. Operaio dell'Ital Sider e sindacalista, impegnato nella lotta al terrorismo degli anni di piombo. tre mesi dopo, il 24 gennaio del 79, Guido Rossa viene ucciso dalle Brigate Rosse a Genova. Aveva 44 anni quando un comando delle BR lo fredda nella sua auto davanti casa mentre andava al lavoro. Per il terrorismo italiano si tratta di un momento di svolta. Dopo aver colpito magistrati, uomini politici, dirigenti, forze di polizia, ad essere ucciso per la prima volta è un operaio, un sindacalista, un militante del Partito Comunista. Quindi dopo il giornale radio per i gialli della storia ricostruiremo la vicenda di Guido Rossa e quel clima, il clima nel quale è maturato quell'omicidio delle Brigate Rosse. Mario, c'è un aggiornamento? No, vabbè, più che aggiornamento ricordiamo che su Generali c'è una grande partita in corso, qualcuno parla appunto di scalata da parte d'Intesa, le controparti si stanno difendendo, in borsa è tornata agli scambi poco fa, fa più 9%, e ricordiamo che Generali è una delle casseforti del sistema quindi industriale. Quindi è un altro italiano. Pezzo del tentativo di conquista dell'Italia da parte dei francesi. Diciamo. Non lo so, vediamo. Beh, però le forze in campo sono un po' quelle, no? Sì. È una... Insomma, chi prende Generali prende un pezzo significativo del sistema industriale italiano. Sì, questo è abbastanza certo, sì. Basta andare a vedere partecipazioni. Certo, e tutto. È un riassetto del capitalismo nostro. Il vero tema è quello che avevamo detto altre volte, e cioè se i capitalisti italiani ci sono ancora. Cioè, infatti, come diceva Boccia l'altro giorno, dice che in qualche modo... sarebbe necessario fare proprio un giro d'orizzonte per ridefinire gli ambiti nel quale il capitalismo italiano realmente agisce. Esatto, poi anche perché di gente che ha soldi ce n'è. Notizie sono che i soldi ce ne sono tanti, ma sono tutti fermi nelle banche o sotto i materassi. Allora decidetevi che cosa fanno i signori capitalisti. Nessuno li investe. Io non li ho. Quindi, nessuno investe. No. Non c'è fiducia, perché non c'è fiducia. Non c'è fiducia nel futuro. Vabbè. Insomma, adesso col professor Roberto Bernabei, come sempre, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, dicembre 2016. Ridotto trattamento antibiotico per l'otite media acuta nei bambini piccoli. L'otite è il tipico disturbo dei bambini piccoli, addirittura la seconda causa di visite pediatriche, ed è una fastidiosissima e dolorosa malattia dell'orecchio, con non solo dolore ma spesso febbre, secrezioni dall'orecchio e addirittura possibili complicanze intracraniche, perché l'infezione può estendersi dentro il cranio con conseguenze a volte devastanti. La terapia consigliata in genere è quella di fare l'antibiotico per 5-10 giorni. I ricercatori si sono chiesti: ma 5 o 10? Cioè, meglio una terapia breve, con tutti i vantaggi della brevità e la difficoltà e la minore incidenza di effetti collaterali, oppure una terapia cronica per tempo più lungo, che assicura probabilmente risultati migliori. E così è. Infatti, quelli con una terapia di soli 5 giorni hanno avuto maggiori insuccessi terapeutici. Erano oltre 800 bambini tra i 6 e i 23 mesi, quindi veramente piccoli, 5 giorni maggiori insuccessi terapeutici senza una diminuzione degli effetti avversi del trattamento, perché sapete, gli antibiotici possono, come tutti i farmaci, dare problematiche. Quindi rassegniamoci, per eradicare la malattia è ben meglio una terapia per 10 giorni. Sentiamo per chiudere oggi cosa ha scelto Gloria Guerrera. Oggi una canzone per chi ha un pensiero fatto di cani randagi, auto abbandonate, freddo e vento, vento che agita l'anima. Loredana Bertè, Il mare d'inverno.